Gazzettino del 2015. Gazzettino del 2015. 8 giugno 2015. Città più verdi anche in verticale. Giardini pensili sempre più diffusi. Il caso più eclatante è quello dei rivestimenti totali per edifici, che permettono di ridurre la dispersione di energia degli edifici, assorbendo calore nelle ore diurne e trattenendolo di notte. Il verde verticale è sempre più diffuso nell'architettura urbana, sia nelle nuove costruzioni, sia nell'attività di ristrutturazione. Diverse sono le tecniche grazie alle quali il rivestimento verde sta prendendo piede. Si va dal sistema basato su un feltro irrorato automaticamente di acqua e nutrienti alle soluzioni intermedie con strutture componibili e modulari. Fin qui la notizia dell'8 giugno 2015, ma come sapete il futuro ha radici nel presente, in questo 2012. Tra i protagonisti di questa nuova tendenza c'è Marco Roveggio, l'architetto che ha ideato Wall-Up, sistema di vasche modulari in alluminio. Tecnologicamente è un contenitore in alluminio, quindi altamente resistente sia nel tempo che nella sua lavorabilità, non è sicuramente intaccabile dalle piante dello sviluppo vegetale e al tempo stesso è un ottimo contenitore per controllare il deflusso dell'acqua e quindi creare dei sistemi virtuosi di ricircolo d'acqua per non sprecare la risorsa acqua. Dal punto di vista ambientale sicuramente la cosa più semplice che fin dai tempi della scuola ci insegnano: la pianta attraverso il sole attiva il processo di fotosintesi clorofilliana, quindi assorbe la CO2 e libera ossigeno, e questo sicuramente è il primo e il principale risultato dell'uso del verde. Sicuramente c'è un sicuro e importante impatto estetico, e quindi al valore di bellezza, di piacere per gli occhi, c'è anche una bellezza, un piacere che viene portato su altre funzionalità. Noi come tecnologia proponiamo delle soluzioni altamente efficaci dal punto di vista energetico, quindi per il risparmio energetico, soprattutto nell'uso estivo. Immaginatevi il sole: il 70% della radiazione solare può essere assorbito dalla foglia. Ciò significa che sulla facciata dell'edificio arriva solamente un 30% della radiazione, e quindi in una stagione estiva l'uso del condizionatore può essere di molto ridotto. Il verde verticale assorbe le polveri sottili e chiaramente stimola lo sviluppo di biodiversità. È tutto per questa puntata del Gazzettino del 2015, condotta da Anna Rita D'Ambrosio e curata da Paolo Piacenza. Se volete scriverci, potete farlo all'indirizzo mail gazzettino2015@radio24.it.